Capitolo terzo. Tristezze del signor di Charlus. Il suo finto duello. Le stazioni del transatlantico. Stanco di Albertine, voglio rompere con lei. Cascavo dal sonno. A farmi salire in ascensore fino al mio piano non fu il lift, ma il fattorino strabico, che attaccò discorso per raccontarmi che sua sorella viveva sempre con quel signore così ricco e che una volta, siccome aveva voglia di tornarsene a casa invece di fare la brava, il signore era andato a trovare la madre del fattorino strabico e dei suoi più fortunati fratelli, la quale aveva riportato in fretta e furia la dissennata a casa dell'amico. «È una gran signora, sapete, mia sorella. Suona il piano, parla spagnolo, e non lo credereste, per essere la sorella del modesto impiegato che manovra il vostro ascensore, non si fa mancare niente. Ha la sua cameriera personale, la signora. Non mi sorprenderebbe se un giorno o l'altro avesse la carrozza. È molto bella. Se la vedeste, un po' troppo superba, ma, diamine, lo si può capire, è molto spiritosa. Non va mai via da un albergo senza fare i suoi bisogni in un armadio, in un comò, per lasciare un ricordino alla cameriera che dovrà pulire. Qualche volta anche in una vettura lo fa, e dopo aver pagato la corsa si nasconde in un angolo per divertirsi a vedere il cocchiere che brontola perché deve lavare il suo trabiccolo. Mio padre è stato fortunato anche con mio fratello più piccolo a trovargli quel principe indiano che ha conosciuto quella volta. È un altro genere, si capisce, ma la sistemazione è magnifica. Se non fosse per i viaggi sarebbe l'ideale. Ci sono solo io per il momento che sono rimasto a piedi, ma non si può mai sapere. La fortuna è di famiglia. Chissà che un giorno non diventi presidente della Repubblica. Ma vi sto facendo chiacchierare. Non avevo detto una sola parola e cominciavo ad addormentarmi ascoltando le sue. Buonasera, signore. Oh, grazie, signore. Se tutti avessero il vostro buon cuore, non ci sarebbero più poveracci. Ma, come dice mia sorella, bisogna che ce ne siano sempre perché, adesso che sono ricca, gli possa rompere un po' i coglioni. Scusatemi l'espressione. Buonanotte, signore. Ogni sera, forse, accettiamo il rischio di vivere, dormendo, sofferenze che consideriamo nulle e non avvenute per averle provate nel corso d'un sonno privo, così crediamo, di coscienza. In effetti, le sere in cui tornavo tardi dalla Raspellier, avevo molto sonno. Ma non appena arrivarono i primi freddi, non riuscii più ad addormentarmi subito perché il fuoco rischiarava come se fosse stata accesa una lampada. Ma non era che una fiammata, e come le stesse lampade, come la luce del giorno quando scende la sera, il suo chiarore troppo vivo non tardava ad abbassarsi e io entravo nel sonno, che è un po' come un secondo appartamento nel quale, lasciando il nostro, ci ritirassimo a dormire. Ha le sue suonerie a parte e qualche volta vi siamo risvegliati bruscamente da una scampanellata perfettamente intesa dalle nostre orecchie, benché nessuno abbia suonato. Ha i suoi domestici, i suoi visitatori particolari, che vengono a prenderci per uscire, tanto che siamo sul punto di alzarci quando, a seguito della nostra quasi immediata trasmigrazione nell'altro appartamento, quello della veglia, ci è giocoforza constatare che la camera è vuota, che non è venuto nessuno. La razza che vi abita, come quella dei primi esseri umani, è androgina. Un uomo, dopo un istante, vi appare sotto l'aspetto di una donna. Le cose hanno una certa tendenza a diventare uomini, gli uomini a diventare amici e nemici. Il tempo che, durante quei sonni, trascorre per il dormiente è assolutamente diverso dal tempo nel quale si compie la vita dell'uomo sveglio. A volte il suo corso è molto più veloce, un quarto d'ora sembra una giornata, a volte molto più lungo. Crediamo di aver fatto soltanto un sonnellino, abbiamo dormito tutto il giorno. Allora, sul carro del sonno, si scende in certe profondità dove il ricordo non ci può più raggiungere e al di qua delle quali la mente è stata costretta a invertire il cammino. I cavalli del sonno, simili a quelli del sole, vanno con un'andatura così costante in un'atmosfera dove non incontrano più la minima resistenza, che ci vuole qualche sassolino aerolitico, a noi estraneo, scagliato dall'azzurro per mano di quale sconosciuto? Per colpire il sonno regolare, che altrimenti non avrebbe ragione alcuna di fermarsi e durerebbe con moto uniforme fin nei secoli dei secoli, e farlo tornare con una brusca virata verso la realtà, bruciare le tappe, attraversare le regioni contigue alla vita, da cui presto il dormiente sentirà i suoi rumori ancora quasi vaghi, ma già benché deformati, percettibili, e atterrare bruscamente al risveglio. Da quei sogni profondi ci si sveglia allora dentro un'aurora, non sapendo chi si è, non essendo nessuno, nuovi, pronti a tutto, giacché il cervello si trova ad essere vuoto di quel passato che prima era la vita. Ed è forse ancor più bello quando l'atterraggio del risveglio avviene brutalmente e i nostri pensieri del sonno, nascosti da una cappa d'oblio, non fanno in tempo a tornare progressivamente prima che il sonno svanisca. Allora, dal nero uragano, che è come se noi avessimo attraversato, ma non diciamo nemmeno noi, usciamo riversi, senza pensieri, un noi senza contenuto. Quale colpo di martello l'essere o la cosa che così giace ha dunque ricevuto per ignorare tutto, stupefatta, sino al momento in cui la memoria, correndo, non le restituisce la coscienza o la personalità? E ancora, per questi due generi di risveglio bisogna non essersi addormentati, sia pure profondamente, sotto la legge dell'abitudine. L'abitudine, infatti, tutto ciò che rinserra nelle sue reti, lo sorveglia. Bisogna sfuggirle, prendere sonno nel momento in cui si credeva di fare tutt'altro che dormire, prendere, in una parola, un sonno che non rimanga sotto la tutela del prevedibile, che non sia accompagnato, anche nascostamente, dalla riflessione. Tutto, almeno, nei risvegli quali li ho appena descritti e che erano per lo più i miei quando la sera prima avevo pranzato alla Raspellière, avveniva come se fosse così, e io posso esserne testimone, io, lo strano essere umano che, aspettando che la morte lo liberi, vive con gli scuri alle finestre, non sa niente del mondo, se ne sta immobile come un gufo, e come un gufo vede un po' chiaro, solo nelle tenebre. Tutto avviene come se fosse così, ma solo uno strato di stoppa forse ha impedito al dormiente di cogliere il dialogo interiore dei ricordi e l'incessante sproloquio del sonno. Infatti, e la cosa del resto può spiegarsi altrettanto bene nel primo sistema, più vasto, più misterioso, più astrale, nel momento in cui si compie il risveglio, il dormiente sente una voce interiore dirgli: «Verrete stasera a quel pranzo, mio caro? Sarebbe così piacevole!» E pensa: «Sì, sarà davvero piacevole, ci andrò!» Poi, accentuandosi il risveglio, ricorda bruscamente: «Alla nonna restano solo poche settimane di vita, il dottore ne è certo!» Suona, si mette a piangere all'idea che a rispondergli non sarà come un tempo la nonna che sta morendo, ma un indifferente cameriere. Del resto, quando il sonno lo trascinava così lontano dal mondo, dove abitano il ricordo e il pensiero, attraverso un etere dove era solo, più che solo, senza nemmeno quel compagno in cui uno vede se stesso, egli era al di fuori del tempo e delle sue misure. Già il cameriere sta entrando e lui non osa chiedergli l'ora, perché ignora se ha dormito, quante ore ha dormito. Si chiede se non si tratti di giorni, tanto ne ritorna col corpo rotto e la mente riposata, il cuore nostalgico, come da un viaggio in luoghi troppo lontani per non essere durato molto tempo. Si può sostenere, certo, che ci sia un unico tempo, per la futile ragione che è bastato guardare la pendola per constatare come fosse soltanto un quarto d'ora ciò che s'era creduto una giornata. Ma nel momento in cui lo si constata, si è appunto uomini svegli, immersi nel tempo degli uomini svegli. L'altro tempo è stato abbandonato. Anche di più, forse, che un altro tempo, un'altra vita. I piaceri che abbiamo nel sonno non li annoveriamo fra i piaceri provati nel corso dell'esistenza, per non alludere che al più volgarmente sensuale fra tutti. Chi di noi al risveglio non si è un po' irritato d'aver provato nel sonno un piacere che una volta svegli non è più possibile rinnovare indefinitamente quello stesso giorno senza rischiare di stancarsi troppo? È come un bene perduto. Abbiamo avuto un piacere in una vita che non è la nostra. Sofferenze e piaceri del sogno, che generalmente svaniscono in gran fretta al risveglio, se li facciamo figurare in un bilancio, non è certo in quello della vita corrente. Ho detto due tempi, forse non ce n'è che uno solo, non perché quello dell'uomo sveglio valga per il dormiente, ma perché forse l'altra vita, quella in cui si dorme, non è, nella sua parte profonda, soggetta alla categoria del tempo. Lo supponevo quando, dopo i pranzi alla Raspellier, m'addormentavo così profondamente. Ecco perché. Cominciavo a disperarmi, al risveglio, vedendo che, sebbene avessi suonato 10 volte, il cameriere non era venuto. All'11ª arrivava. Non era che la prima. Le altre 10 erano solo abbozzi, nel mio sonno non ancora finito, della scampanellata che desideravo. Le mie mani intorpidite non s'erano nemmeno mosse. Ora, quelle mattine, per questo dico che il sonno forse ignora la legge del tempo, il mio sforzo per svegliarmi consisteva soprattutto in uno sforzo per far entrare il blocco scuro, non definito, del sonno appena vissuto dentro le cornici del tempo. Compito non facile. Il sonno, che ignora se abbiamo dormito 2 ore o 2 giorni, non può fornirci alcun punto di riferimento. E se non ne troviamo all'esterno, non riuscendo a rientrare nel tempo, ci riaddormentiamo per 5 minuti, che ci sembrano 3 ore. Ho sempre detto e sperimentato che il più potente degli ipnotici è il sonno. È molto più difficile svegliarsi dopo aver dormito profondamente per 2 ore, essersi battuti con tanti giganti e aver stretto tante amicizie in periture, che dopo aver preso parecchi grammi di Veronal. Così, mentre riflettevo su tutto questo, fui sorpreso di apprendere dal filosofo norvegese, che l'aveva saputo da Boutroux, suo eminente collega, pardon, suo confratello, cosa pensava Bergson delle particolari alterazioni della memoria dovute agli ipnotici. Naturalmente, avrebbe detto, stando al filosofo norvegese, Bergson a Boutroux, gli ipnotici presi di tanto in tanto a dosi moderate non influiscono affatto sulla solida memoria della nostra vita di tutti i giorni, così ben radicata in noi, ma ci sono altre memorie più elevate e anche più instabili. Un mio collega tiene un corso di storia antica e mi ha detto che se la sera prima aveva preso un cachet per dormire, faceva fatica durante la lezione a ricordare le citazioni greche di cui aveva bisogno. Il medico che gli aveva prescritto quei cachet gli assicurò che non influivano sulla memoria. «Forse perché voi non dovete fare citazioni greche», gli aveva risposto lo storico, non senza un sarcastico orgoglio. Non so se questa conversazione fra Bergson e Boutroux si sia svolta in questi esatti termini. Il filosofo norvegese, peraltro così profondo e lucido, così appassionatamente attento, potrebbe aver capito male. Personalmente la mia esperienza mi ha fornito risultati opposti. I momenti d'oblio che seguono il giorno dopo all'ingestione di certi narcotici hanno una somiglianza solo parziale ma impressionante con l'oblio che regna nel corso di una notte di sonno naturale e profondo. Ora ciò che dimentico, nell'uno come nell'altro caso, non è quel certo verso di Baudelaire che semmai mi affatica al pari d'un salterio, non è quel determinato concetto d'uno dei filosofi citati, è la realtà stessa delle cose ordinarie che mi circondano, se dormo, e la cui non percezione fa di me un folle. È, se sono sveglio ed esco da un sonno artificiale, non già il sistema di Porfirio o di Plotino, di cui posso discutere come in un qualsiasi altro giorno, ma la risposta che ho promesso di dare a un invito e al cui ricordo si è sostituito un bianco assoluto. L'idea elevata è rimasta al suo posto. Ciò che l'ipnotico ha messo fuori uso è il potere d'agire nelle piccole cose, in tutto ciò che richiede qualche attività per riafferrare giusto in tempo, per agguantare quel tale ricordo della vita di tutti i giorni. Malgrado tutto quanto si può dire della sopravvivenza dopo la distruzione del cervello, noto che ad ogni alterazione del cervello corrisponde un frammento di morte. Possediamo tutti i nostri ricordi, se non la facoltà di rammentarceli, aveva detto, riferendo il pensiero di Bergson, il filosofo norvegese, di cui non ho cercato, per non rallentare ulteriormente, di imitare il linguaggio. Se non la facoltà di rammentarceli. Ma cos'è un ricordo di cui non ci si ricorda? Oppure, spingiamoci più in là. Non ci rammentiamo dei nostri ricordi degli ultimi 30 anni, ma siamo interamente immersi in essi. Perché allora fermarsi a 30 anni? Perché non prolungare sino al di là della nascita questa vita anteriore? Dal momento che non conosco tutta una parte dei ricordi che stanno dietro di me, dal momento che mi sono invisibili, che non ho la facoltà di richiamarli a me, chi mi dice che in quella massa a me ignota, non ce ne siano che risalgono a ben oltre la mia vita umana? Se posso avere in me e attorno a me tanti ricordi di cui non mi rammento, questo oblio, oblio di fatto, almeno già che non ho la facoltà di vedere nulla, può avere per oggetto una vita vissuta da me nel corpo di un altro uomo, persino su un altro pianeta. Un identico oblio cancella tutto. Ma cosa significa allora quella immortalità dell'anima di cui il filosofo norvegese affermava la realtà? L'essere che io sarò dopo la morte non ha ragioni di ricordarsi dell'uomo che io sono dalla mia nascita, più di quanto questo non si ricordi di ciò che io sono stato prima di essa.